Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Sono state 149 le donne vittime di omicidi volontari nel 2016 in Italia. Se si esamina la relazione autore-vittima, di quei 149 omicidi di donne nel 2016, quasi 3 su 4 sono stati commessi nell'ambito familiare. 59 donne sono state uccise dal partner, 17 da un ex partner e altre 33 da un parente. Ecco, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, questo è il bollettino dato dal presidente dell'Istat oggi all'Eva in sede parlamentare dei femminicidi in Italia. Avete sentito che bei numeri? E ieri abbiamo parlato anche del caso dell'uomo che a Udine il 31 luglio aveva ucciso la fidanzata di 21 anni, lui di 36, lei di 21, aveva girato diverse ore in auto col cadavere e dopo meno di 2 mesi di carcere è stato messo ieri ai domiciliari. Questo ha creato molta indignazione, la sollevazione anche del paese in cui viveva la povera vittima. E oggi la senatrice Francesca Puglisi, presidente della commissione parlamentare contro il femminicidio, ha chiesto gli atti al Tribunale dei Riesami, insomma ha chiesto di vedere quali siano le motivazioni che hanno portato a questa decisione, che almeno apparentemente così la percepiamo come estremamente ingiusta. Poi si vedrà, almeno questa indignazione, diciamo, ogni tanto l'indignazione serve a smuovere qualcosa, poi si vedrà qual è l'esito di queste verifiche, però intanto, diciamo, un primo passo è stato fatto per capire per quale motivo è stata fatta questa scelta di mettere un femminicida ai domiciliari dopo meno di un mese, dopo meno di 2 mesi. Gli argomenti anche questa sera sono molti, ci collegheremo con la Francia perché c'è stato questo vertice tra il Presidente del Consiglio Gentiloni e il Presidente Macron e sembra che siano giunti a diverse intese, prima di tutto quella sulla vicenda Fincantieri, poi ne parleremo nel dettaglio. Ci collegheremo anche con la Spagna perché mancano 4 giorni al referendum per l'indipendenza della Catalogna, molto osteggiato da Madrid, tanto che si temono scontri, insomma, alla vigilia di questo referendum. E poi ci occuperemo anche del caso che sta facendo molto discutere di un uomo morto dopo un trapianto di cuore. Dall'ospedale da cui è stato spiantato questo cuore e anche l'ospedale dove è stato trapiantato l'uomo dicono che il cuore era perfetto, però i medici legali della famiglia dicono che era inidoneo questo cuore. Insomma, cercheremo di capire quali possono essere stati i problemi e soprattutto come avvengono in generale i trapianti in Italia, che sembra che sia un'eccellenza. Allora, prima di tutto, mentre vi ricordo che per la vostra interazione con Effetto Notte c'è la pagina Facebook di Effetto Notte e poi il numero per messaggi e WhatsApp che è 349 238 6666, vi racconto come sempre in sintesi la giornata. Il vertice franco-italiano a Lione, Macron e Gentiloni trovano l'accordo sui cantieri di Saint-Nazaire e affermano vinciamo insieme. Ryanair, la compagnia aerea, si ritira dalla gara per Alitalia e annuncia altri tagli di voli anche nel 2018. L'uomo morto per il trapianto, per i medici il cuore era sano, mentre i consulenti medico-legali della famiglia dichiarano l'organo inidoneo. La ministra Lorenzin invia gli ispettori. Spagna, la Catalogna allo scontro finale in vista del referendum. Madrid invia migliaia di agenti, appello dei vescovi al dialogo. Femminicidi nel 2016 sono stati 149, uno quasi ogni 2 giorni e mezzo. Sono i dati dell'Istat presentati oggi dal presidente Alleva in audizione parlamentare. E sul caso dell'uomo che ha ucciso a luglio la fidanzata di 21 anni ed è adesso agli arresti domiciliari, la presidente della commissione sul femminicidio chiede l'accesso agli atti. Politica, alta tensione sullo Ius Soli, al Senato scontro tra PD e sinistra. Emergenza rifiuti, la vittoria di un hotel a Napoli, comuni condannati a fare sconti sulla Tarsu. Social network, Twitter tenta il rilancio e raddoppia lo spazio per i messaggi. Calcio, nella partita di Champions la Roma ha battuto gli azzeri del Karabakh 2-1. In campo adesso c'è la Juventus contro l'Olympiakos e per il momento la partita procede 0-0. Parliamo quindi dal vertice italo-francese a Lione, o franco-italiano, visto che era in Francia, intesa raggiunta, insomma, assieme tra Gentiloni e Macron sui cantieri navali francesi di Saint-Nazaire. In sostanza il 51% va a Fincantieri grazie al prestito dell'1% da parte dello Stato francese. Il presidente Emmanuel Macron ha parlato di campione mondiale nel campo navale. Così ha detto in conferenza stampa: vinciamo assieme. Gentiloni ha sottolineato l'importanza che arrivi il messaggio, dice che Italia e Francia hanno un programma di lavoro comune per i prossimi mesi, con l'obiettivo di creare insieme un grande player mondiale dell'industria navale, civile e militare. E tra poco, come vi dicevo, per andare un po' più nel dettaglio di questo accordo, per capire anche quali erano gli altri temi sul tavolo, ci colleghiamo con Lione. Nel frattempo parliamo della vicenda Ryanair. La compagnia low cost si ritira dalla gara per Alitalia e annuncia altri tagli di voli. Ryanair lascia a terra altri 400.000 passeggeri. La compagnia low cost irlandese ha infatti deciso di tagliare altre migliaia di voli fino a marzo 2018, oltre a quelli già programmati per settembre e ottobre. La compagnia irlandese ha annunciato che rallenterà la crescita prevista per la stagione invernale, facendo così volare 25 aerei in meno da novembre e 10 da aprile su un totale di 400 aerei. Ryanair si sfila poi dalla corsa all'acquisto di Alitalia. La società irlandese infatti ha anche annunciato che non presenterà alcuna offerta vincolante per la compagnia italiana. Una decisione che non stupisce il sindacato, dice Nino Cortorillo, segretario generale della FILT CGL. Avevamo sempre un po' immaginato che questa vicenda di Alitalia fosse anche utile a Ryanair, come dire, a fare continui scoop pubblicitari, non capendo esattamente quale fosse il reale interesse. Quindi l'accogliamo anche con soddisfazione, perché non potremmo immaginare una compagnia come Alitalia, nonostante la situazione in cui è, nelle mani di Ryanair. Noi stiamo ancora attendendo che l'ENAC ci dica esattamente quali sono le reali motivazioni in base alle quali Ryanair ha effettuato innumerevoli cancellazioni di voli. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E adesso il caso dell'uomo morto dopo il trapianto. La ministra della Salute annuncia controlli in seguito a questa vicenda di quest'uomo di 60 anni morto dopo un trapianto di cuore. Il cuore è assolutamente in condizioni perfette. È un percorso standard, seguiamo linee guida e percorsi ben definiti che seguono tutti i centri trapianti. È il direttore dell'unità di cardiochirurgia del San Camillo, Francesco Musumeci, a difendere l'operato dei medici dell'ospedale romano, ma anche del San Raffaele di Milano, da dove è arrivata l'autorizzazione al trapianto. La vicenda: un uomo milanese muore in piscina per danni cerebrali. I medici del San Raffaele danno il via libera e l'organo viene portato a Roma, dove è in attesa un paziente sessantenne. Trapianto effettuato con successo, ma 48 ore dopo il cuore donato si ferma. Questo, dicono ora dal San Camillo, il punto più problematico. Il trapianto è avvenuto su un paziente particolarmente critico, particolarmente compromesso. Anche il Centro Nazionale Trapianti difende la correttezza delle procedure. La ministro Lorenzin parla però di un fatto inaccettabile, mentre l'inchiesta, ancora contro ignoti, è passata nelle mani della Procura di Milano. E tra i documenti c'è una consulenza medico-legale disposta dalla Procura di Roma, che stabilisce invece che il cuore non era idoneo. Anna Migliorati, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Poi, come vi anticipavo, ne parleremo nel corso di Effetto Notte con il presidente della Società Italiana Trapianti d'Organo. Ora ritorniamo sulle notizie dall'estero con la Spagna. Il ministro dell'Interno catalano Joaquín Forn ha accusato il governo spagnolo di cercare di provocare disordini in Catalogna domenica prossima durante il referendum per l'indipendenza per, dice, giustificare l'invio di migliaia di rinforzi di polizia. Vogliono che ci siano tumulti, non manifestazioni pacifiche, ha detto il ministro dell'Interno catalano. Poi ci colleghiamo con Barcellona e per sentire anche appunto che aria si respira in città a 4 giorni da questo referendum. Siamo adesso sulla politica italiana e in questo caso il clima è surriscaldato invece dal dibattito sullo Ius Soli. Non ci sono i numeri neanche per la fiducia, ma una mediazione è possibile, fa sapere la ministra Finocchiaro. È un percorso decisamente in salita quello dello Ius Soli al Senato. Il passo indietro del partito di Alfano rischia di essere decisivo, nonostante Partito Democratico ed MDP spingano perché il governo vada avanti anche mettendo la fiducia. Gli attuali numeri a Palazzo Madama non permettono però neanche la calendarizzazione del provvedimento, spiega il capogruppo Dem Zanda. Il punto è che senza Alternativa Popolare quei 30 voti mancano, con o senza la fiducia, aggiunge dal governo la ministra Finocchiaro. Per la responsabile dei rapporti con il Parlamento, lo Ius Soli resta comunque l'obiettivo del governo dopo il DEF, ma sarà necessario lavorare ad una mediazione. La vicenda è chiusa definitivamente per la Lega, è una nostra vittoria, dice Salvini. Sul tema più ampio intanto del fenomeno migratorio interviene il presidente della Repubblica Mattarella. Il capo dello Stato rimarca la necessità che il tema sia al centro della politica europea. È un percorso impegnativo, che ha di fronte delle difficoltà, dell'esigenza di comporre sensibilità e opinioni differenti. Sul tema interviene anche il Santo Padre e Cristo stesso, spiega Papa Francesco, ci chiede di accogliere a braccia aperte i nostri fratelli e sorelle, migranti e rifugiati. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ora torniamo a parlare di femminicidi, perché oggi il presidente Alleva, il presidente dell'Istat, in audizione parlamentare ha fornito i dati del rapporto Istat. Nel 2016 in Italia sono stati 149 i femminicidi, uno quasi ogni due giorni e mezzo. Sentiamo Alleva. Sono state 149 le donne vittime di omicidi volontari nel 2016 in Italia. Se si esamina la relazione autore-vittima, di quei 149 omicidi di donne nel 2016, quasi 3 su 4 sono stati commessi nell'ambito familiare. 59 donne sono state uccise dal partner, 17 da un ex partner e altre 33 da un parente, quindi 109 su 149. Nel nostro paese la dimensione quantitativa degli omicidi nel complesso è sostanzialmente contenuta se paragonata a quelle prevalenti nei maggiori paesi europei. E sul caso dell'uomo che a Udine ha ucciso a luglio la fidanzata di 21 anni e che dopo meno di due mesi di carcere è da ieri agli arresti domiciliari, la presidente della commissione parlamentare sul femminicidio, Francesca Puglisi, ha chiesto al procuratore della Repubblica di Udine l'accesso agli atti delle ordinanze applicative relative appunto alle misure cautelari adottate dal primo grado e dal tribunale del riesame sul caso di Nadia Orlando, scrive Puglisi, barbaramente uccisa dal fidanzato Francesco Mazzega. Ora le università, in arrivo per le università italiane un piano anticorruzione. Con i primi interrogatori dei docenti finiti agli arresti domiciliari entra nel vivo l'inchiesta di Firenze sui concorsi universitari truccati. Il Ministero dell'Istruzione si riserva di costituirsi parte civile nel processo. Negli atenei italiani c'è un deficit etico, avverte nel frattempo il presidente dell'autorità anticorruzione, Cantone, che assieme al Ministero è al lavoro su un codice di trasparenza sui concorsi universitari. Una delle sue proposte è quella di inserire nelle commissioni componenti esterni al mondo accademico, un'idea che approfondiremo, assicura la ministra Fedeli. Sono per approfondire anche questa proposta di Cantone, probabilmente oltre a questo dobbiamo andare molto più in profondità e più alla radice. A Napoli intanto rischia il rinvio a giudizio il rettore dell'università Suor Orsola Benincasa, Lucio D'Alessandro, indagato assieme ad altri tre docenti per abuso d'ufficio. Secondo la procura avrebbero favorito un figlio dell'ex ministro Zecchino nell'assegnazione di un posto da ricercatore. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ora una sentenza che riguarda l'emergenza rifiuti, una sentenza della Cassazione a Napoli che farà discutere comuni obbligati a tagliare le tasse sui rifiuti in caso di emergenza sanitaria. Il ricordo dei cumuli di rifiuti che sovrastavano intere strade e marciapiedi del centro e della periferia della città è ancora vivo in molti napoletani. Quello dell'emergenza rifiuti e le difficoltà nella gestione della raccolta rappresenta un periodo nero ed indimenticabile. Oltre il danno, la beffa di dover pagare per intero la TARSU. Ma oggi interviene un giudizio della Corte di Cassazione per riequilibrare la situazione. Non importa se il comune sia responsabile o meno per i disservizi gravi e protratti nel tempo subiti durante l'emergenza rifiuti a Napoli. In ogni caso, i cittadini e le imprese hanno diritto a una riduzione del 40% della TARSU. È questa la decisione della Suprema Corte, che ha esaminato il ricorso di un noto hotel partenopeo, l'Hotel Britannique, al quale il comune aveva negato la riduzione, e vale anche se il disagio che ha fatto scattare l'allarme sanitario si sia verificato sotto gestione commissariale. Laura Vigiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli. Di nuovo all'estero, la commissione elettorale incaricata di organizzare il referendum sull'indipendenza del Kurdistan, di cui abbiamo parlato in questi giorni con il nostro inviato Kurdistan iracheno, ha annunciato oggi ufficialmente che la commissione elettorale la vittoria del sì con una schiacciante maggioranza, sia al referendum per l'indipendenza dall'Iraq. Secondo la commissione, a favore dell'indipendenza ha votato il 92% dei votanti. Tuttavia le compagnie aeree di Turchia, Libano e Egitto sospenderanno da venerdì i loro voli verso e dal Kurdistan iracheno su richiesta delle autorità di Baghdad, furiose Baghdad, quindi l'Iraq, contro il referendum per questa indipendenza che si è svolto lunedì. Poi l'Arabia Saudita, notizia di ieri che avevo dato, proprio appena battuta dalle agenzie, del principe saudita che ha deciso di concedere dopo decine di anni la possibilità alle donne di guidare l'auto, l'unico paese che lo vietava. All'indomani di questo annuncio, di questa decisione, è acceso il dibattito in Arabia Saudita sulla portata, e non solo lì, di questa iniziativa, da alcuni giudicata storica, da altri solo un primo passo nella direzione dell'emancipazione femminile nella monarchia del Golfo. Il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, e il Dipartimento di Stato americano si congratulano per la decisione, ma in molti ricordano che le donne saudite rimangono vittime di severe restrizioni in un contesto in cui è ancora ci sono timide riforme intraprese dal nuovo corso del principe Mohammed Ben Salam, ma non sembrano intaccare il muro di oppressione nei confronti delle donne. Social network, Twitter tenta il rilancio e raddoppia lo spazio per i messaggi. La grande novità che riguarda Twitter, ne parleremo nel corso di Effetto Notte fra gli altri temi. E poi, per chiudere, il calcio. Nella partita di Champions, la Roma ha battuto gli azzeri del Karabakh 2-1. In campo adesso c'è la Juventus contro l'Olympiakos e il risultato è sempre per il momento 0-0. Bene, questa è la sintesi della giornata. Come sempre, tra poco gli aggiornamenti per chi viaggia, e poi così cominciamo ad affrontare alcuni temi con gli ospiti. Il numero per i vostri messaggi WhatsApp è sempre 349-238-6666, mentre sempre a vostra disposizione la pagina Facebook di Effetto Notte. Ringrazio due ascoltatori, uno non si firma, l'altra è Clotilde, alla quale non so bene cosa rispondere. Poi dice invece Fabio: già arrivano delle domande molto tecniche sull'accordo tra Francia e Italia su Fincantieri e i cantieri Saint-Nazaire, e tra poco ne parliamo con il nostro inviato. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci subito insieme, le notizie ve le ho raccontate nel riassunto della giornata. So che qualcuno non è subito pronto all'appello alle 21, quindi ogni tanto vi ricordo i titoli principali, lo farò tra pochissimo. Intanto i vostri messaggi, pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il 349-238-6666 sui temi principali di oggi, su quelli che adesso affronterò con gli ospiti. Allora, vi ricordo molto velocemente che queste sono le notizie più importanti. Italia e Francia trovano l'accordo, la spunta Fincantieri. Gentiloni dice: una soluzione ottima, ora nuovo slancio per l'Unione Europea. E poi il caso dell'uomo sessantenne che muore dopo il trapianto, ma per i medici il cuore era sano, i consulenti legali dicono no, era un organo inidoneo, e la ministra Lorenzin manda gli ispettori al San Camillo a Roma. Alta tensione sullo Ius Soli, politica italiana, questa al Senato, lite tra PD e sinistra. E poi Casini, Pier Ferdinando Casini, che diventa presidente, è stato nominato presidente della Commissione inchiesta sulle banche. La vicenda Ryanair taglia ancora i voli, la compagnia aerea rinuncia all'Alitalia. E poi TARSU ridotta, la tassa sull'immondizia del 40% se danneggiati dall'emergenza rifiuti. Questa è una sentenza della Cassazione. Poi c'è la Catalogna, lo scontro finale, mancano 4 giorni al referendum, Madrid invia migliaia di agenti. E poi Twitter che supera i 140 caratteri, è un modo per rilanciarsi. Allora, parliamo subito del vertice bilaterale di Lione tra Macron e Gentiloni con il nostro Carlo Marroni del Sole 24 Ore, che è lì a Lione. Ciao Carlo. Ciao Roberta, eccoci qua. Carlo, allora, nonostante le tante tensioni che si trascinavano da qualche tempo, no, tra Francia e Italia, sui migranti, sulla gestione della Libia, su Vivendi, su Fincantieri, pare che questo incontro, queste tensioni le abbia piuttosto attenuate, no? Con Macron che ha affermato: siamo entrati nei dettagli della roadmap comune per scandire il lavoro dei prossimi mesi, insieme vinciamo, e anche Gentiloni praticamente sulla stessa linea. Vogliamo sentire velocemente due passaggi, Macron e poi Gentiloni? Nous aurons ce soir l'occasion de rentrer dans le détail de la feuille de route partagée entre la France et l'Italie avec l'ensemble des ministres ici présents qui permettront de scander les prochains mois de notre travail conjoint. Nous avons pu, dans un premier temps, échanger ensemble sur les Macron sujets bilatéraux. Sta spiegando appunto degli accordi di questo incontro bilaterale dei ministri tutti presenti, e sta spiegando gli accordi appunto raggiunti. Sentiamo Gentiloni. L'accordo molto positivo, ottimo accordo che abbiamo raggiunto sui cantieri navali est-ex, cantieri dell'Atlantico, dove noi molto semplicemente abbiamo trovato, credo, lavorando in amicizia, una soluzione che consente al partner, al socio industriale, come è giusto che sia, di gestire, e consente alla Francia, come è giusto che sia, di avere le garanzie sul piano del lavoro, della tecnologia, che la Francia aveva chiesto. Carlo Marroni, allora entri più tu nel dettaglio di questa raggiunta intesa? Sì, i termini erano già stati, diciamo, annunciati oggi, quindi comunque sia l'Italia ottiene il 51%, per farla breve, però con un 1% che la Francia di fatto presta per 12 anni e la può riprendersi se secondo, diciamo, alcuni poi successive verifiche l'Italia non rispetta degli accordi sulla tecnologia che deve rimanere in Francia, sull'occupazione, eccetera. Quindi è stata una formula che salva faccia per entrambi, politicamente sostenibile. L'Italia c'ha il 51, però la Francia può riprenderselo e sono tutti contenti. Un accordo win-win, come si dice, che l'ha detto anche Macron, e il Gentiloni pure era molto soddisfatto, perché proprio questo è un accordo politico che ha risolto una questione, diciamo, che si era un po' incatenata su se stessa. Questo è l'accordo raggiunto prima, oggi è stato, diciamo, solo siglato, ma insomma era un oggetto che ben tenuto nascosto. Senti Carlo, momento. Presidente e amministratore delegato saranno di nomina italiana, no? Mi sembra. Sì, allora aspetta, sì, dovrebbe essere così, però ci sarà un gruppo di lavoro che stabilirà queste norme, cioè quindi loro non hanno messo tutto nero su bianco, però verosimilmente sarà sicuramente il capo azienda sarà indicato dall'Italia. Ma ripeto, queste sono poi cose che dovranno stabilire a parte. Loro hanno messo, la guida italiana, su questo non c'è dubbio. Quindi anche questo, ora, il presidente non lo so, sicuramente l'amministratore delegato. Quindi questo è il primo punto, però poi sarà verificato con successivamente sia, diciamo, l'applicazione di questo accordo, che come verrà stretto l'accordo sulla parte militare. Questa è la parte civile, la parte militare, dove entreranno altri giocatori in campo. Per l'Italia Leonardo Finmeccanica, che è il concorrente della francese Thales, che fa più o meno le stesse cose. Il rischio era che rimanessero un po' tagliata fuori a Finmeccanica, ecco, diciamo, su questo vertice Gentiloni, il governo italiano, ha messo sul piatto anche questo, diciamo, tema che sarà in prospettiva. Carlo, prima di passare brevemente a Vivendi Telecom, che Gentiloni, insomma, ha fatto un accenno anche questo, vedo diverse domande per te, se hai voglia di rispondere. Si vede che gli ascoltatori e le ascoltatrici sono molto interessati a questa questione di Saint-Nazaire. Franco dice: non ho mai capito se il cantiere navale di Saint-Nazaire voluto da Fincantieri è con il bilancio attivo o in debito. La società che li gestiva era addirittura in amministrazione controllata, era sostanzialmente fallita. Perché la Fincantieri vuole comprare questa cantiere? Perché come bacino di carenaggio è il più grosso del mondo, sicuramente d'Europa, è un chilometro. Si possono costruire navi da 220.000 tonnellate a Saint-Nazaire, e a Trieste no, si può arrivare fino a 180.000 tonnellate, sono sempre grosse. Per conseguenza, diciamo, permetterà a Fincantieri di entrare in un segmento di mercato della crocieristica che è il più grosso di tutto. Questo è perché quello vuole. Però, tanto per dare un esempio delle cifre, quando la Fincantieri ha siglato l'accordo nel marzo scorso, l'acquisto del 66% è costato 80 milioni. 80 milioni ormai nel business globale è una cifra, direi, quasi ridicola. Per cui, diciamo così, non stiamo parlando di... Era proprio perché strategicamente per la Francia è importante poter avere una mano sui cantieri più grossi, perché se lì volesse costruire una cacciatore pedriniere, non so, la cosa deve avere la certezza di poterlo fare. E quindi la perdita totale del capitale francese metteva, secondo loro, a rischio questo passaggio. Poi c'è anche il tema dell'occupazione, certo, che temevano, e altre cose. Poi Walter e Fabio, altre domande. Fabio, Walter dice: STX e Fincantieri, ma nei 12 anni di prestito, se al sesto salta la verifica dell'accordo, le navi che sta costruendo lì Fincantieri, che fine fanno? Forse un po' troppo tecnica questa domanda? No, soprattutto è magica, nel senso che nessuno può sapere che accadrà siglando l'accordo. Non lo so, vedranno, ci saranno delle clausole che lo prevederanno. Immagino. Ultima, quella di Fabio, che dice: ma lo Stato francese in STX mantiene il diritto di blocco come prima? Allora, di blocco, non so cosa vuol dire in questo caso diritto di blocco, però diciamo l'1% è lo, diciamo così, lo Stato francese di fatto che permette alla Fincantieri di avere il 51% e questo 1% è, diciamo, quello che gli permette di avere la direzione. Però laddove in verifiche bilaterali di commissioni miste, immagino, venga stabilito che non sono rispettati gli accordi chiusi oggi, allora la Francia ha il diritto di riprendersi l'1%. In quel caso, nel caso in cui la Fincantieri gli stesse più bene di avere una guida paritetica o quel che è, allora ha il diritto di vendere il suo 50%, cioè di uscire del tutto. Si chiama put and call, che poi in borsa, per chi ha investigato con le cose finanziarie, è una cosa che capita. In questo caso è 1 più 50, ma insomma questo è più o meno l'impianto. Poi io non ho visto il verbale, quindi ci basiamo su quello che ci hanno detto. Certo. Carlo, per chiudere, poi c'è sempre anche la partita Vivendi Telecom, ma oggi Gentiloni ha detto questa è una vicenda molto diversa, sono aziende private a cui chiediamo solo rispetto delle leggi italiane e delle regole europee in Italia come in Francia, no? Quindi... Sì, beh, insomma, sappiamo che la vicenda Vivendi Telecom Team è scattata la settimana dopo della nazionalizzazione di STX, quindi sono scollegate formalmente, ma politicamente sono molto collegate. Domani sappiamo che il governo, Palazzo Chigi, il comitato che è istituito per la Golden Power, era ieri e deve decidere, rinviata a domani, proprio perché diplomaticamente fare una cosa ieri su oggi, insomma, ecco, diciamo così, non andava bene dal punto di vista politico-diplomatico, e questo è giusto. Domani decideranno, non sappiamo come decideranno, o perlomeno ci sono tante ipotesi che venga esercitata, per lo più è quella più, diciamo, accreditata, e hanno detto sono aziende private e qui chiediamo il rispetto della legge. Anche Macron ha detto sono aziende private, noi non abbiamo, diciamo così, l'ambizione di dirigere anche le aziende private. Naturalmente, diciamo, tale importanza, diciamo, strategica, perché gestiscono delle infrastrutture, diciamo, nazionali, ancorché private, quindi c'è un'attenzione dei governi, bla bla bla, tutte queste cose sappiamo, questi discorsi, cioè, però allo stesso tempo hanno voluto, insomma, tenerla un po' fuori questa cosa. Infatti ci sono riusciti, nel senso che così è stata affrontata incidentalmente. Grazie Carlo Marroni, intanto da Lione. Ciao Carlo, grazie a te, buona Roberta, serata lì in Francia. Dalla Francia alla Spagna, 4 giorni dal referendum per l'indipendenza della Catalogna, questa regione della Spagna con capitale Barcellona, che diciamo porta la Spagna al 20% del PIL, che ha già una sua grande autonomia, un suo Parlamento, e però sapete che da tempo chiede proprio l'indipendenza da Madrid. Questo referendum ci sarà il 1 ottobre e sapete che da tempo è fortemente osteggiato da Madrid. La tensione quindi tra Barcellona e la capitale spagnola è sempre più alta. Nei giorni scorsi sapete che la polizia spagnola ha arrestato e poi rilasciato diversi esponenti e funzionari del governo catalano, ha sequestrato migliaia di tessere elettorali, poi ci sono state le proteste di piazza e oggi il ministro dell'interno catalano Joaquín Forn ha accusato il governo spagnolo di cercare di provocare disordini in Catalogna in vista appunto del referendum del 1 ottobre. Allora raggiungiamo Mario Magaró, il nostro Mario Magaró lì a Barcellona. Ciao Mario. Ciao Roberta, buonasera. Ci racconti quindi in tutto questo contesto lì a Barcellona, già gravemente provata dalla strage terroristica di agosto, adesso la tensione per questo referendum, come vedi le persone in giro, che situazione c'è a Barcellona? La tensione è evidente, palpabile, qui a Barcellona e in tutta la Catalogna, per la verità. Io ieri proprio sono stato in una zona interna della Catalogna, intorno alla città di Vic, che è una delle patrie, uno dei bastioni dell'indipendentismo, dove in sostanza la Catalogna si percepisce come un'entità indipendente da sempre. Come la Spagna viene quindi percepita come un'entità diversa, estranea, da sempre, scusate la ripetizione. E lì sono assolutamente tutti convinti di voler votare e di volersi poi rendere indipendenti, anche se qui poi bisogna fare un distinguo importante in termini di percentuali, stando appunto anche agli ultimi sondaggi, perché c'è una percentuale enorme, la stragrande maggioranza dei catalani, circa l'80%, vuole votare, cioè vuole esprimere il proprio parere, sì o no, attraverso un referendum. Quando poi invece si parla di indipendenza, la percentuale scende sensibilmente. Siamo intorno al 40-45%. Questo è un dato interessante, sì. È un dato molto interessante perché nella percentuale appunto dei di favorevole al referendum, ci sono anche molti catalani che vogliono poter dire no, permettere definitivamente, in sostanza, a tacere la questione e continuare come una regione autonoma all'interno della Spagna. Quindi è un distinguo molto importante da fare. D'altronde lo stesso governo catalano, per bocca del presidente Carles Puigdemont, ha ribadito più volte che in caso di vittoria del no, convocherà immediatamente elezioni anticipate, elezioni regionali ovviamente in questo caso. La tensione è grandissima, sicuramente il blitz della Guardia Civile della settimana scorsa in 14 diverse sedi istituzionali del governo catalano, in primis all'interno del Ministero dell'Economia, ha creato una spaccatura, una sorta, io credo, di punto di non ritorno nella relazione tra Madrid e Barcellona, come è stato evidenziato poi dalla reazione del popolo dei catalani, perché esattamente una settimana fa, a quest'ora, alle 9.30, c'erano 40.000 persone per strada sotto il Ministero dell'Economia, accusando Madrid e concretamente il premier Mariano Rajoy di adottare metodi fascisti, di adottare metodi propri dell'epoca di Francisco Franco e di invocare l'indipendenza della Catalogna. Quindi questa l'azione di Madrid, l'azione appunto compiuta attraverso le parti della polizia, della Guardia Civile in questo caso, perché bisogna considerare che in Spagna ci sono 3 corpi di polizia, o meglio di quelli operativi in Catalogna, 2 sono a carattere nazionale, ovvero la Polizia Nazionale e la Guardia Civile, e 1 è poi la Polizia Catalana, i Mossos de Squadra. E proprio le relazioni tra questi 3 corpi di polizia, che come hanno dimostrato anche gli attentati di Barcellona poco più di un mese e mezzo fa, è molto tesa, è sempre stata molto tesa, ed è stata anche l'occasione degli attentati, perché sono rimpallati accuse a vicenda di non aver fornito una polizia all'altra informazioni, ad esempio, sui viaggi del famoso imam di Ripoglie. E le accuse a vicenda, insomma, si stanno ripetendo in occasione del referendum catalano. Il capo dei Mossos de Squadra, appunto la Polizia Regionale Catalana, che oggi ha espresso riserve circa l'ordine ricevuto ieri dalla Procura Spagnola di recintare i seggi del referendum, perché dice questo potrebbe portare a disordini, provocare delle conseguenze non desiderate. Insomma, aspettiamo di vedere che cosa succede nelle prossime ore. Poi c'è l'appello dei Vescovi al dialogo. Intanto fermiamoci qui, Mario Magarò. Grazie intanto per il tuo lavoro e buona serata. Ciao Mario. Buona serata. Pausa, prendiamo la pausa, i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete tra l'altro aderire senza indugio, e poi anche al 349-238-6666, che è il numero per messaggi WhatsApp. Già vedo un ascoltatore che fa un commento sul caso di cui parleremo tra pochissimo, di questo uomo morto dopo un trapianto di cuore. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, siete al posto giusto, nel momento giusto, anche se volete con la giusta conduttrice con voi, Roberta Giordano. Abbiamo parlato di vari argomenti, ci siamo collegati con la Francia per questi importanti accordi tra Macron e il presidente del Consiglio italiano Gentiloni, e poi in Spagna, perché mancano 4 giorni a questo referendum per l'indipendenza della Catalogna e la situazione è sempre più tesa. Ora invece ci occupiamo di una vicenda italiana, di questo uomo di 60 anni morto dopo un trapianto di cuore. Vedo già qualche messaggio, qualcuno che ipotizza delle diagnosi, delle possibili cause. Insomma, adesso ne parliamo con un esperto. Dice questo ascoltatore: l'espianto è la rimozione del neotrapiantato in caso di fallimento, rigetto acuto cronico e retrapiantato. Molto complicato, magari quando scrivete queste cose su argomenti così delicati e difficili cercate di fare uno sforzo un po' più di chiarezza. Adesso lo faremo invece col nostro esperto tra pochissimo. Vi ricordo però, se avete acceso in questo momento, ma accendete puntualmente alle 21, le notizie più importanti. Il vertice franco-italiano a Lione, Macron e Gentiloni che trovano l'accordo sui cantieri di Saint-Nazaire e affermano vinciamo insieme. Ryanair, la compagnia aerea, si ritira dalla gara per l'Italia e annuncia altri tagli di voli anche nel 2018. E poi l'uomo morto dopo il trapianto, ne parleremo tra pochissimo. Spagna, la Catalogna allo scontro finale in vista del referendum, Madrid invia migliaia di agenti. Femminicidi nel 2016 sono stati 149 in Italia, uno quasi ogni 2 giorni e mezzo. Sono i dati dell'Istat presentati oggi dal presidente Alleva in audizione parlamentare e sul caso dell'uomo che ha ucciso a luglio la fidanzata di 21 anni ed è agli arresti domiciliari da ieri, la presidente della commissione sul femminicidio, Francesca Puglisi, chiede l'accesso agli atti. Politica, alta tensione sullo Ius Soli, al Senato scontro tra PD e sinistra e poi social network, Twitter tenta il rilancio e raddoppia lo spazio per i messaggi e poi c'è il calcio. Nella partita di Champions la Roma ha battuto gli azzeri del Karabakh 2-1, in campo c'è la Juventus contro l'Olympiakos e procede la partita 0-0. Passiamo allora a questa vicenda dell'uomo di 60 anni morto all'ospedale San Camillo di Roma 48 ore dopo un trapianto di cuore che era stato espiantato al San Raffaele di Milano, un uomo di 46 anni. Il caso, appunto, sul caso i medici del San Camillo di Roma assicurano il cuore del donatore era perfetto, dal Centro Nazionale Trapianti assicurano tutte le procedure sono state rispettate e l'organo dopo gli esami è risultato idoneo al trapianto, mentre dall'esito di una consulenza medico-legale disposta dai magistrati risulterebbe che l'organo non era idoneo. La ministra della Salute Lorenzin parla di una vicenda gravissima, annuncia l'invio di ispettori e su questa morte sono state aperte due inchieste, una della procura, una interna all'ospedale San Raffaele. San Raffaele, il direttore della cardiochirurgia del San Camillo di Roma, Francesco Musumeci, avanza 5 possibili cause per questo decesso. L'uomo dice potrebbe essere deceduto a seguito di un rigetto iperacuto oppure di una risposta infiammatoria sistemica o di un'infezione da endotossina batterica, da una sindrome legata ai farmaci per anestesia oppure a seguito di ipertensione polmonare strutturale. Ne voglio parlare con un esperto che è Umberto Cillo, presidente della Società Italiana dei Trapianti d'Organo. Dottor Cillo, buonasera. Buonasera, bentrovati. Bentrovato a lei. Lei, capisco che la questione è delicata perché bisogna appunto avere tutte le carte in mano, eccetera. Lei si è fatto un'idea di cosa possa essere successo? Ma l'ha detto molto bene lei, è impossibile farsi un'idea concreta di quello che succede in una procedura della complessità di un trapianto di cuore leggendo sui giornali le notizie. Io sto alle indicazioni del Centro Nazionale Trapianti che assicura che l'organo era assolutamente idoneo e su questa base io sono assolutamente certo che quello che viene riportato al Centro Nazionale è affidabile e basato su dati concreti. Ripeto, la complessità è veramente monumentale in un trapianto d'organo. E la preoccupazione che io devo manifestare come presidente della società è che c'è un po' di semplificazione. C'è, come dire, nei media la tendenza a ridurre tutto a una semplificazione. Il trapianto di cuore è una procedura estremamente difficile. Senta, che percentuale di sopravvivenza, di riuscita c'è nel caso appunto specifico di un trapianto di cuore al di là degli altri trapianti? Sì, guardi, ha colto nel segno, nel senso che per questo dico non si può semplificare. Il trapianto di cuore ha una sopravvivenza ad un anno dell'82% in Italia e l'Italia è tra le migliori nazioni al mondo come performance in ambito trapiantologico, cioè come risultati per i pazienti dopo l'intervento. E 82% vuol dire che il 18% dei pazienti non ce la fa. Guardi, quest'anno noi festeggiamo i 50 anni dal primo trapianto di cuore di Barnard, forse lo ricorderete, certo. Alcuni dei meno giovani. E 50 anni è un periodo storico brevissimo, io lo ricordo, avevo 6 anni quando è stato fatto il primo trapianto. In 50 anni si è passati dal 100% di mortalità, vuol dire che questi pazienti morivano tutti senza trapianto di cuore, all'82%. Ma non si può banalizzare, non si può pensare che il trapianto sia una bacchetta magica e che tutti i pazienti entrino ed escano. Questa è una visione un po' edulcorata della medicina, forse un po' televisiva. La medicina è complessa, soprattutto questa medicina che è fatta di una quantità di variabili che è difficile da trasferire. E quindi 82% è già un risultato straordinario, ma il 18% dei pazienti purtroppo non ce la fa perché la complessità della malattia che li porta al trapianto è tale e le variabili appunto in gioco sono tali che alcuni pazienti possono non farcela. Quindi appunto lei dice nonostante l'Italia sia all'avanguardia nel mondo, è un'eccellenza, una delle migliori, parte il nostro sistema sanitario, no? Uno dei migliori del mondo, e quindi dice anche l'ambito dei trapianti, però dice quella percentuale in cui le cose magari per un qualche motivo vanno storte, bisogna sempre metterla in conto. Beh, ma nei trapianti sì, ripeto, si tratta di prelevare un organo, il cuore, il fegato, il rene, i polmoni, da un individuo che è morto cerebralmente, tenerlo nel ghiaccio per alcune ore spesso, poi reimpiantarlo e fare in modo che quella funzione riprenda immediatamente. È una magia, è una cosa che era impensabile 60, 50, 60 anni fa. Oggi ha una parvenza di routinarietà, ma la sua complessità non può essere come dire annullata. Non è l'intervento di tonsillectomia per il quale si può giustamente gridare alla grossa preoccupazione se c'è la perdita di un paziente. E purtroppo molti pazienti, alcuni pazienti non ce la fanno dopo i trapianti d'organo, proprio per il numero di problemi che sono legati alle malattie che li portano alla necessità di una sostituzione d'organo. Dottor Cillo, per chiudere, è possibile che qualcosa sia successo magari appunto nel trasporto del cuore da Milano a Roma, perché veniva dal San Raffaele di Milano e poi è stato trasportato al San Camillo di Roma? Direi assolutamente di no, il fegato viene conservato, il cuore viene conservato in ipotermia. Quello che voglio rimarcare però è che in queste procedure forse il controllo, i servocontrolli, la quantità di persone che esegue i controlli, la rete, l'articolazione della rete trapiantologica è veramente straordinaria, è forse uno degli esempi di eccellenza nella sanità italiana. Pensi che nessun'altra realtà, se non quella trapiantologica, forse ipotesi d'anca, permette ogni cittadino di entrare sul sito del Ministero della Salute e di vedere i risultati in tempo reale di quel particolare centro, di tutti i centri trapianti italiani a 5-10 anni dal trapianto, di avere cioè i dati in mano. Nessuna attività sanitaria oggi in Italia e nel mondo, ci viene riconosciuto, ha un livello di trasparenza così alto. È veramente un sistema che funziona con grande articolazione. Io non credo che nel trasporto sia successo assolutamente. Grazie dottor Umberto Cillo, grazie per la sua disponibilità anche. Buona serata, grazie. Viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Notizie che vi ricordo molto brevemente, mi raccomando accendete puntualmente le 21, ogni tanto però sapete le ripeto perché altri salgono in macchina, accendono la radio mentre stanno stirando, mentre stanno cucinando, in momenti diversi. Italia e Francia trovano l'accordo in questo vertice di Lione su Fincantieri, nella spunta Gentiloni, c'è una soluzione ottima, ora nuovo slancio per l'Unione Europea. E poi ne abbiamo appena parlato di questo caso di un uomo di 60 anni che è morto dopo un trapianto di cuore a San Camillo di Roma, ma i medici dicono il cuore era sano, mentre i consulenti legali parlano di un organo inidoneo. Però avete appena sentito l'esperto Ugo Cillo della Società Italiana per i Trapianti d'Organo. Alta tensione sullo Ius Soli per quanto riguarda la politica italiana, al Senato lite tra PD e Sinistra. Poi Casini, che è stato nominato Pier Ferdinando Casini presidente della commissione d'inchiesta sulle banche. Il caso Ryanair prosegue, taglia ancora i voli anche per il 2018 e rinuncia alla gara per Alitalia. Catalogna allo scontro finale, mancano 4 giorni al referendum per l'indipendenza e Madrid invia migliaia di agenti. E Twitter supera i 140 caratteri, ne parliamo proprio adesso. Parliamo adesso appunto della svolta di Twitter, social network creato nel 2006, una piattaforma in cui gli utenti, per chi non lo sapesse, condividono i loro pensieri, le notizie, informazioni eccetera, non superando però il limite di 140 caratteri. Un microblog che da sempre è caratterizzato proprio per questo limite, diciamo, questa brevità dei cinguetti. La novità sta nel fatto che la società ha deciso di rompere questo storico limite dei 140 caratteri e quindi di raddoppiare lo spazio per i messaggi a 280 caratteri. Marta Cagnola, ciao Marta. Ciao Roberta, buonasera a tutti. Che se ne intende di social network col suo programma del sabato in particolare, non solo per quello? Certo, non solo perché è appassionata, ma appassionata anche per ragioni professionali. Marta, quindi diciamo, è da tempo che lo annunciava per dare più spazio, perché effettivamente sì, chiaramente a volte spiegare le cose in quei pochi caratteri diventa difficile, però dietro c'è forse anche forse la necessità di un rilancio, perché non va tanto bene Twitter. Sì. Allora, la giustificazione ufficiale dell'azienda è stata: molti utenti in molte lingue sentono la frustrazione di non poter spiegare i loro pensieri. Ad esempio, gli utenti inglesi, insomma anglofoni, hanno bisogno di più parole, mentre per i giapponesi, avendo degli ideogrammi, 140 caratteri bastano. Beh, per l'italiano è anche faticoso, è no? faticoso. Insomma, già l'inglese più sintetico. È un lavoro di cesello, è anche un bel lavoro di sintesi, ma insomma è un lavoro impegnativo. Allora, in realtà c'è un problema molto, molto più pratico. Twitter è in crisi intanto di utenti, che sono circa 320 milioni nel mondo, Facebook ne ha 2 miliardi, ma soprattutto in crisi di investimenti pubblicitari e di crescita. A cosa potrebbe portare un aumento dei caratteri a 280? Le aziende potrebbero avere più spazio per promuovere prodotti e servizi, quindi per rendere il social network più appetibile per le aziende, insomma, si raddoppia e non si lascia per cercare di tirare un po' su le sorti di questo social network che piace molto ai politici, piace molto ai giornalisti, piace molto ai personaggi dello spettacolo, dello sport, insomma, per fare notizia è perfetto, per esprimere i pensieri comuni è un po' troppo sintetico per e quindi molti. Potrebbe diventare un importante ulteriore importante veicolo di pubblicità, dicevi, per le aziende, se ci fosse più spazio. Bisogna stare in piedi in qualche modo. Se pensi che ad esempio Facebook proprio oggi ha annunciato che testerà delle informazioni a pagamento, cioè sai quando ogni tanto appare su Facebook diventa pagamento? No, Facebook non diventa pagamento, ma testerà dal prossimo anno con 10 società editoriali ed informazioni anche in Italia un servizio di news a pagamento. Annuncio, vuoi leggere questo annuncio su questo articolo su Facebook? Sì, clicchi e paghi. Quindi anche Facebook cerca dei modi di monetizzare, perché questi social network sono gratuiti, ma in qualche modo devono pur campare. Twitter, secondo te, continuerà a rimanere gratuito per la gran parte della gente, a parte per le inserzioni pubblicitarie? Sì, allora lo spirito dei social network è quello di essere gratuiti, però le aziende devono trovare il modo di trovare una sostenibilità economica. Ovviamente la sostenibilità economica dipende da quanto possono essere appetibili per le aziende. Questo è un tentativo importante. Funzionerà? Non lo so. Sicuramente abbiamo visto, ad esempio, quanto è aumentata la pubblicità su Instagram, un social network che va molto bene. Ecco, aumenterà anche su Twitter, perché è l'unico modo per farlo restare in piedi. Instagram è più legato alle immagini, però, alla fotografia, no? Instagram è anche molto adatto per la pubblicità, perché è questo social network su cui ognuno posta delle fotografie corredate da pensieri che possono anche essere lunghissimi. Ci sono molti commenti. È un social definito un po' più educato. È difficile che si litighi su Instagram. Si postano immagini anche molto fotogeniche, ecco, il rischio che magari Instagram abbia una vocazione un po' troppo così, appunto, di apparenza, di rendere le nostre vite un po' troppo edulcorate, troppo fotogeniche, però è comunque molto appetito dalle aziende, non solo per le inserzioni a pagamento, ma anche, qui si era aperto un altro fronte nei mesi scorsi, perché molte celebrità che utilizzano Instagram in realtà si fanno pagare per farsi fotografare con un vestito, con un paio di scarpe. Adesso perlomeno si sta cercando di imporre l'utilizzo di alcuni hashtag come AD, advertising, insomma, per far capire dei piccoli codici, per far capire anche ad esempio ai ragazzi che sì, Belen Rodriguez ha questo vestito su Instagram, ma non perché le piaceva, ma è stata pagata per metterlo, ed è un po' diverso. Senti, ritornando a Twitter invece, qual è il principale antagonista di Twitter? Esiste un altro, no? Guarda, in realtà per quanto riguarda i social network, ognuno ha una sua specializzazione. Il più diffuso è Facebook, ed è quello davvero più diffuso, 2 miliardi no? di utenti nel mondo. Twitter ha 328 milioni di utenti ed è l'unico che si caratterizza per questa brevità. Ogni altro social network ha una sua specificità. Ad esempio c'è Snapchat, che è quello che viene utilizzato dai ragazzi, perché i ragazzi non amano più i social network che lasciano traccia. Noi siamo abituati a postare una cosa che poi ci potrà essere rinfacciata tra molti anni. Pensa ai politici che scrivono una cosa: io non mi alleerò mai con Tizio su Twitter, poi ci si allea e il tweet viene recuperato. E invece adesso i ragazzi utilizzano Snapchat e utilizzano le Instagram Stories, che sono dei brevi video o dei brevi filmati o delle fotografie che dopo 24 ore si distruggono. Spariscono, e quindi nessuno usa e getta, insomma, usa e getta, perché i ragazzi hanno capito che non devono lasciare traccia. Quindi in realtà non c'è un vero e proprio antagonista di un social network, sono le abitudini che cambiano e ci affezioniamo a social network diversi a seconda dell'età, delle abitudini e dei gusti. Quando inizia questa cosa di Twitter, la novità del raddoppio? Guarda, adesso c'è un piccolo gruppo di utenti che lo stanno iniziando a testare. Subito la battuta è stata: chissà quanto potrà scrivere Donald Trump. Pochi minuti fa è stato reso noto che Donald Trump non sarà nel gruppo di quelli che iniziano a testarlo proprio da questi giorni. Già ieri sera è apparso il primo tweet di Jack Dorsey, che è il fondatore, già lunghissimo, quindi infatti è il primo tweet così lungo che abbiamo visto, nel quale spiegavano che c'è un piccolo gruppo di, che si dice, beta tester, di sperimentatori che testeranno questa lunghezza a 280 caratteri. Io dovrò cambiare il titolo della trasmissione che faccio ogni sabato, quella piccolina a 140 caratteri, la chiamerò, non so, 280 a questo punto. Già, toccherà cambiare il titolo, diventa obsoleto il titolo. Dovrò cambiare titolo. Ricordi anche l'orario e il titolo dell'altra? Allora, 140 caratteri sabato alle 15, Radio Tube, Social Village e Social Network dalle 16 alle 18, quindi tutto il sabato pomeriggio. Con Marta Cagnola. Ciao Marta, grazie. A presto, grazie. Il nostro Dario Ricci ci dirà che nella partita non ci sono state grandi evoluzioni della Juventus in Champions, è vero Dario? Eh sì, è proprio così, Roberta, parlavate di non lasciar traccia, quello che sta facendo finora l'attacco juventino contro l'Olympiacos a Torino, risultato ancora bloccato sullo 0-0, ricordiamo Higuaín in panchina, Mandzukic al centro dell'attacco, ma i greci hanno costruito una ragnatela che finora sta tenendo alle incursioni sia del croato sia di una buona occasione di Dybala sul finire del primo tempo, ma insomma Juventus che ha predominio territoriale ma finora non riesce a creare i grandi pericoli dalle parti della porta greca. Meglio è andata, seppur sempre col fiatone, alla Roma, che a Baku oggi ha battuto il Karabakh, che pensate all'esordio era stato sconfitto per 6-0 dal Chelsea, un Chelsea che è sotto di 1-0 contro l'Atletico Madrid, e stavolta la Roma ha vinto sì, ma solamente per 2-1, a fatica, e per fortuna nel primo quarto d'ora sono arrivate le reti di Manolas e Dzeko, poi il gol degli azzeri che nel finale hanno anche sfiorato il pareggio. Per completezza di informazione, da sottolineare che nell'altra gara del gruppo della Juventus finora è 0-0 tra Sporting Lisbona e Barcellona. E così anche la Juventus è 0-0, come dicevi. Grazie Dario Ricci, ciao Dario, buona partita. Ciao, ciao. E adesso vi lascio, poi lo sapete che ci ritroviamo brevemente alle 22.